Vi do il benvenuto, buonasera a tutte le gentili signore e signori qui presenti, vi ringrazio di essere qui con noi anche questa sera. Ho il piacere di presentare Ettore Frangipane, che già conoscete, non occorre che mi dilunghi. Voglio però ricordare la sua scrittura, in quanto da tempo abbiamo la possibilità di presentare i suoi libri, soprattutto nell'ambito storico, apprezzatissimi dal pubblico, e poi quelli di fumetti, la sua ironia nel trattare alcuni temi con anche accompagnati dai disegni, la sagaccia, ma si misura anche con i romanzi, e questa sera è proprio la volta della presentazione di un romanzo, Da Bolzano a Tinari. Abbiamo già scoperto la sua vena narrativa in un'altra occasione, alcuni anni fa, e questa sera ritorniamo a scoprire Ettore Frangipane come romanziere. Sarà accompagnato questa serata da Carmen Esposito, attrice professionista, che ha una bellissima voce e saprà sicuramente interpretare i passi più salienti di questo racconto. Approfitto di questa piccola finestra che cerco di ricavare ogni sera per così comunicare alcune cose relative all'attività della biblioteca. Lunedì 20 novembre, sempre in questa sala, verrà presentato un docufilm, Anch'io ho detto no, da Bolzano a San Vostel. È un docufilm realizzato in collaborazione con l'AMPI, dal Centro Audiovisivi, e racconta la storia di Orazio Leonardi, che era un bolzanino internato IMI e tornato a casa, e insomma la sua storia è stata documentata con questa produzione. E poi ci sarà la volta della conferenza sull'immigrazione di Marco Pugliese, che sarà con noi lunedì 27 novembre. Un'ultima cosa prima di cedere la parola ai nostri ospiti: da gennaio 2018 noi continueremo a fare le iniziative, continueremo a farle qui nello stesso orario, con questa formula ormai consolidata, ma con una novità: non faremo più le cartoline. Quindi le iniziative verranno promosse attraverso il nostro sito web, attraverso Facebook, attraverso le newsletter o mail. Chi fosse interessato e non avesse ancora lasciato il proprio indirizzo mail può lasciarlo in biblioteca, o iscriversi, oppure semplicemente così comunicarlo. Sì, chi riceve già adesso la newsletter non deve preoccuparsi. Chi riceve la cartolina deve attivarsi per trovare un altro sistema per essere raggiunto, perché noi non provvederemo più a questa formula di comunicazione. E quindi lo dico già adesso, ne approfitto per questo mese che abbiamo davanti di attività ancora, per avvisare che la biblioteca comunicherà solamente attraverso i media digitali, ecco, diciamo, non più con la cartolina, che è troppo dispendiosa e troppo complicata. Sì. Benissimo, allora ringrazio ancora tutti quanti, ringrazio i nostri ospiti e vi lascio il microfono. Buona serata a tutti. Credo che sia questo. Se volete venire un po' più avanti, magari. Se volete venire un po' più avanti, in modo che ci state comodi, d'accordo, però magari se ci compattiamo un pochettino stiamo più vicini. Oggi possiamo, perché come vedete siamo in pochi. L'organizzazione della città di Bolzano ha fatto in modo che ci fosse una concomitanza tra questa manifestazione e un'analoga manifestazione che si svolge proprio a quest'ora al circolo della stampa di Bolzano, e quindi siamo in pochi, siamo decisamente in pochi, mi spiace assai. Comunque, a maggior ragione quindi vi ringrazio, perché evidentemente avete ceduto alla tentazione che vi propongo io, venire qua anziché andare là. Anzi, non insisto col dirvi dove, perché magari scappate e ci andate in corso. Bene, vi abbiamo presentato, stata presentata dalla signora Carmen Esposito, che leggerà alcuni brani di questo mio romanzo. Come sapete voi, io sono specializzato in un certo senso in storie bolzanine. Bolzano scomparso, è arrivato al suo nono volume, e che ho presentato quest'anno, due mesi fa mi pare. E questo invece che presento stasera è un romanzo che fa seguito ad un altro romanzo precedente apparso 3-4 anni fa, Requiem a Bolzano, che tratta prevalentemente di femminicidi, anzi soprattutto di femminicidi, femminicidi avvenuti a Bolzano, che sono stati tanti nel secondo dopoguerra. Marcella Casagrande, Francesca Montebugnoli, Anna Ciudat, poi la professoressa Cipolletti, che si prostituiva, tra l'altro è stata uccisa a coltellate da Marco Bergamo, un pluriomicidio, oggi si dice serial killer. Un altro assassino seriale fu Guido Zinger subito dopo la guerra. E io ho ricordato quegli episodi nell'ambito di un'altra vicenda di fantasia che ho proposto, che è quella di una professoressa, anche questa, cui ho dato nome Sara Finzi, ed è ebrea, non a caso, che è abbandonata dal marito, che se n'è andato, che è nascosto, che non c'è più, che chissà dove sia, si è concessa qualche libertà, e quando è tornato il marito lo ha ucciso. Cosa è avvenuto però? Che il commissario che indagava sulla morte del marito di Sara Finzi poteva aver avuto qualche sospetto che fosse lei, però era rimasto affascinato da questa donna, gli piaceva questa Sara, e quindi forse non ha indagato come avrebbe dovuto, forse è arrivato alle conclusioni che doveva arrivare, ma ha preferito a questo punto accompagnarsi a Sara e farle la corte, e lei gli ha ceduto, anche perché questa è un'altra forma di coercizione nei confronti della donna, di una donna, anche perché teneva che Cepparulo avesse capito che lei era la vera mi viene da dire uccisora, non si può dire, ucciditrice neanche, diciamo assassina. Se volessi dire all'americana direi killer, ma non sono per le lingue straniere. Dunque, e quindi questi due personaggi, Cepparulo e Sara Finzi, partono e vanno in Sicilia, dove avvengono certe cose che vengono poi raccontate nel libro. Sara Finzi, cerchiamo di tratteggiare questo personaggio, questa signora. Sara Finzi è un personaggio che mi affascina, che mi ha affascinato non perché esistente, no, non esiste logicamente affatto, ma perché mi sono, le donne che piacciono a me, mi piacciono le donne naturalmente, però sono in questa direzione le mie attenzioni, si rivolgono alle donne per ora e penso anche per il futuro, visto la mia grave età ormai, no? E credo che le donne, non le ragazzine, sia ben detto, visto che ci sono infette un po' dappertutto e di queste cose si parla e si scrive e sempre più abbondantemente. Io invece preferisco la donna che ha esperienza, che ha vissuto, che ha qualcosa da comunicare, che non passa la giornata con il telefonino in mano e che dopo aver fatto l'amore è anche capace di qualche considerazione intelligente, no? C'è una breve descrizione di Sara, come l'hai immaginato io, e come io, che evidentemente manifesto un certo complesso di Edipo in questa mia preferenza, ho ritenuto di descriverla. Thank you. Mi sento in pieno declino. Ho vissuto i miei anni. Adesso vedo le rughe farsi strada sul collo. Mi guardo allo specchio. Lo vedo. Posso mettermi tutto il fondotinta che voglio in faccia. Ma il collo resta indifeso. E poi mi guardo le mani, quelle brutte macchie che si fanno lentamente strada. E un inizio di anno cefalico. Me lo dicevano di non esagerare coi tacchi. Adesso non li metto che raramente, ma ormai la frittata è fatta. Passiamo da un funerale all'altro. E dopo? Cosa ci sarà dopo? Se n'è andata anche Laura, che era il ritratto della bellezza, della simpatia. Sembrava giovane dentro, lo era sicuramente. Dov'è adesso Laura? Sono andata a vederla nella bara al cimitero, quando era ancora aperta. Era bella, non si sarebbe detto delle sue sofferenze. Morire annaspato senza aria. Tumore ad entrambi i polmoni, lei che non fumava. E come sarà adesso Laura? Ossa. Ci avete mai pensato? Noi portiamo dentro di noi stessi, l'immagine della nostra morte. Dentro di noi ci sono il nostro teschio, i nostri femori, le nostre ossa, il nostro orrore. Così ragiona e pensa Sara. Sara che incontra. Ce n'è ancora di pezzi da fare. Grazie comunque, molto gentile. Siete carini. Andiamo a ritratteggiare adesso il personaggio. Il personaggio Cepparulo, il dottor Cepparulo, un meridionale trapiantato qui al nord, che qui al nord non si sente del tutto a suo agio, evidentemente, che è stato trapiantato. Forse come mio padre, che era calabrese e che di Catanzaro, e che è venuto per vivere al nord come impiegato statale. E sono tanti i bolzanini di origine meridionale che forse si trovano bene qua, forse no, io mi trovo bene perché qua sono nato, ma è un meridionale trapiantato a Bolzano e forse non si sente sempre e soltanto bene. Vediamo di delineare adesso il carattere del dottor Renato Cepparulo. Sara non sapeva niente di Cepparulo. Era sposato, lo era stato. Emerse la vita di un solitario dai tanti fratelli, poche prospettive di lavoro laggiù nel sud, l'ente pubblico con posto sicuro come traguardo finale, gli altri fratelli impiegati alla regione, le due sorelle infermiere. Il suo cugino di Patti spiegò che Tindari era una frazione di Patti, aveva invece una libreria. Per la verità era una cartoleria, libreria, perché con i libri non ce n'era sufficienza da campare. Si legge poco al sud. Ci sono grandi cervelli che leggono molto, leggono tutto e sanno tutto, ma sono pochi. I più non leggono che i giornali locali, al bar. E i giornali sportivi, certo. Suo cugino poi non era veramente suo cugino, era un parente alla lontana. Dice Paolo, non sono siciliani, disse. Sono campani del Casertano. Suo cugino Ceparulo scendeva da un ramo che si era trasferito in Sicilia all'epoca dei Borboni. Il capostipite di Ceparulo di Patti era un ufficiale del regno delle due Sicilie. Mangiavano lentamente. Ceparulo parlava, Sara lo lasciava dire. Aveva quasi paura di interromperlo, temeva che si azzettisse e non le dicesse più niente. Poi le interessava quell'emergere di lontani fantasmi risaliti ai Borboni, un altro mondo. Garibaldi, non fu quella una gran cosa per la Sicilia. Lo sai che Garibaldi sbarcò anche a Patti? Sì, esattamente dove andremo noi. Avevano cospirato per accoglierlo, lo attendevano, gli fecero grandi feste e loro, i garibaldini, caricarono sul comune le spese dell'accoglienza e del loro insediamento, mettendone in crisi le scarse finanze. Garibaldi conquistò la Sicilia grazie agli inglesi, alla mafia, al denaro. E gli mandarono contro il generale Landi, un vecchio che comandava i suoi uomini standosene in carrozza, anche sul campo di battaglia a Calatafimi. Garibaldi fu appoggiato dalla mafia in Sicilia, dalla Camorra Napoli, così come gli americani furono appoggiati dalla mafia quando, un'ottantina d'anni dopo, sbarcarono a loro volta sulle coste siciliane. Ma Sara si apriva un mondo inaspettato, incredibile. Ceparulo mangiava lentamente, guardando nel piatto, parlava con tono sommesso. I loro occhi non si incontravano e quando per un attimo si incrociavano, lui li abbassava subito. C'era nel suo tono del rimpianto e della vergogna insieme. Sara avvertiva soprattutto dell'orgoglio. Il regno delle due Sicilie. Era poi stato veramente solo un contenitore di sola negatività, o quella che aveva appreso a scuola non era che la versione piemontese del risorgimento, la versione del vincitore, re victis. Garibaldi sbarcò a Patti nel luglio del 1860. Apprese che ad Alcara e Fusi una dozzina di paesani si erano in precedenza ribellati ai Borboni, e li fece processare e fucilare sul segreto della chiesa. Lo sapevi questo? E sai della strage di Bonda? La Sara sapeva. Era una vicenda che non le era mai piaciuta. Quei contadini, quei popolani, quei cittadini che si erano rivoltati contro il latifondo in mano agli inglesi, eredi dell'ammiraglio Nelson, che furono passati per le armi da Nino Bixio per ristabilire l'ordine, erano piombo sulla bilancia del risorgimento. Sara disse: ma i piemontesi portarono le libertà costituzionali, il progresso. Questa volta Ceparulo la fissò negli occhi. Progresso? Allora ti dirò che al tempo delle due Sicilie l'industria della ceramica a Patti impiegava 2000 addetti. C'erano concerie, seterie, fonderie. Patti aveva bastimenti che trasportavano per mare la sua pasta, i suoi prodotti. Tutto questo con Garibaldi svanì. E a tanti abitanti di Patti non restò che l'emigrazione. Bene, partono. Perché lui l'ha invitata a Tindari, che è una frazione del comune di Patti, e lui aveva un cugino, un parente a Patti. Alla lontana. Alla dogana. Alla lontana. Alla lontana, ho capito dogana. Vabbè, un parente alla lontana che lì abitava perché aveva una villetta che cedeva al suo cugino Cerparulo, il commissario di polizia, quando lui se ne andava altrove. Quindi il commissario andava in questa villetta che chiamavano Villino, perché al sud una piccola villa la chiamano così. Anche mio padre aveva un villino a Ponte Grande, vicino a Catanzaro, che poi, quando è scoppiata la guerra, volendo fare un grande affare, mio nonno ha venduto, investendo tutto in buoni del tesoro. Ecco, non è rimasto più niente, naturalmente. Partono in aereo, perché c'è il volo Bolzano-Catania, cosa eccezionale, che speriamo si ripeta qualche volta, visto che forse prima o dopo il campo d'aviazione di Bolzano sarà ingrandito. Partono e volano verso sud, e torniamo a sentire adesso la voce di Carmen. Siamo in aereo. A Sara viene da pensare agli aerei che percorrevano frequenti la verticale di Bolzano, strisce bianche che si allungavano, si intersecavano, svanivano lentamente, vapori dovuti alla condensazione, cui qualche imbecille attribuiva poteri nefasti. Alle volte le si vedevano, alle volte no. E Sara si chiese se, grazie al sereno, anche il loro aereo fosse stato servito quest'oggi da una lunga coda bianca. Quando vedeva quelle strisce solcare il cielo di Bolzano, Sara pensava che alla loro fonte, anche se non lo si vedeva per via della lontananza, c'era un aereo che trasportava centinaia di passeggeri, e che per ciascuno di questi il mondo era racchiuso nella cabina che occupava, lassù, e non si rendeva conto di essere un niente, immerso in una realtà infinitamente più vasta. L'infinito. Ripensava alle volte all'ermo colle del quale aveva detto tante volte a scolaresche, quasi sempre attente. Era un tema che affascinava e che Sara sapeva esporre con trasporto e parole adatte. Il silenzio interstellare colpiva gli studenti che, grazie ai loro studi tecnici, sapevano come avviene la propagazione del suono. Ma se lento e mirando interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi, e profondissima quiete, io nel pensiero mi fingo, onde per poco il cor non si spaura. È come il vento odo stormir tra queste piante. Vedete la contrapposizione, ragazzi? Nel vuoto interstellare, suoni e rumori non si risentono, perché le onde sonore non hanno possibilità di espandersi, ma sulla Terra, nell'atmosfera, sì. È come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questo suono lo comparando. E mi sovviene l'eterno e le morte stagioni, e la presente è viva e il suono di lei. E così in questa immensità s'annega il pensiero mio e naufragarmi dolce in questo mare. Allora la professoressa Finzi divagava sugli immensi spazi dell'universo, sulle distanze misurate in anni luce, sulla luce che impiega 300.000 chilometri al secondo per muoversi, che ci mette dagli 8 ai 10 minuti per coprire la distanza tra il Sole e la Terra, che impiega millenni, milioni di anni solari per poter raggiungere il nostro pianeta, partendo da nebulose lontane, e ogni nebulosa è formata da milioni, miliardi di altre stelle. E il nostro sistema solare non è che niente, che si trova alla periferia di una nebulosa chiamata Via Lattea, una tra le tantissime. L'avete mai vista la Via Lattea? Non saranno mai accorti che ci fosse. Allora la professoressa diceva che oggi, con l'inquinamento luminoso, e spiegava cos'era, le stelle non le si vedevano quasi più. Scusate, ho bisogno di bere un sorso d'acqua, scusate. Che le stelle non le si vedevano quasi più e non si ha neanche l'idea dell'esistenza della Via Lattea che ci avvolge e che si scorge sulla nostra verticale. Siamo immersi nell'immensità dell'infinito e non conosciamo niente della materia oscura. Scusate, oggi un po' di raucedine. Chissà perché al Papa non capita mai tossire durante le sue prediche. L'avete mai sentito? Siamo immersi nell'immensità dell'infinito e non conosciamo niente della materia oscura che rappresenta l'80% dell'universo, dei buchi neri che divorano la materia e dai quali non ci possono giungere segnali, perché la loro massa è tale che i raggi che producono, luminosi o gamma o qualsivoglia, ricadono all'indietro, riassorbiti dalla gravità, e si immergono in questi immensi buchi, fatti forse d'antimateria. I suoi studenti l'ascoltavano affascinati, sicuramente più dall'astronomia che da Leopardi. E allora Sara parlava di quel naufragare, che il poeta aveva definito dolce. Una professione di nichilismo, una negazione dell'essere che richiamava il concetto del nulla, del niente. La prof è atea, sussurrava. Ma Sara, in quella lezione che ripeteva annualmente ed ogni anno con successo, a questo punto associava la dolcezza del naufragio, secondo Leopardi, al dramma del naufragio di Ulisse e dei suoi compagni. Dopo tante avventure, dopo tante esperienze, Ulisse era tornato a casa dalla sua Penelope, ma dopo un po' si rese conto che non gli bastava. Ulisse era il ritratto dell'uomo, della sua essenza intelligente. Non è il guerriero muscolare come Achille, ma l'animale uomo che si pone domande, che assetato di esperienze, che costruisce lentamente la sua intelligenza, la sua conoscenza, che contribuisce affinché la specie umana si elevi al di sopra della sua vita animale. Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Queste sono le parole con cui l'uomo Ulisse induce i suoi compagni di tante avventure a partire per un'ultima sfida: abbandonare il Mediterraneo e lanciarsi oltre le colonne d'Ercole, nel mare oceano dell'ignoto, per scoprire cosa c'è oltre il limite imposto dagli dèi. I suoi studenti la seguivano attenti. Era la lezione che Sara ripeteva con successo sicuro, anche per il trasporto che vi affondeva. Recitò a memoria: noi ci allegrammo e tosto tornò in pianto, che dalla nuova terra un turbo nacque, che percosse del legno il primo canto. Tre volte il fe girar con tutte l'acque, alla quarta levar la poppa in suso e la prora ire in giù con l'altrui piacque, infin che il mar fu sopra noi richiuso. La guardavano muti, con gli occhi spalancati, tesi. Leopardi trova nel naufragio un senso di dolcezza. È dolce naufragare in questo mare. Dante fa seguire una breve immagine di onde sconvolte, quella di un mare che si chiude sopra la piccola ciurma greca, annullandola nel silenzio delle sue profondità. In entrambi i casi, il mare come fonte di silenzio, di pace. Il mare che cancella, che annulla. Il mare che si fa strumento degli dèi. Fondamentalmente, nemici degli uomini. Sì, e atea, dicevano gli studenti. Arrivano e incomincia una vita che non vi descrivo nei dettagli, naturalmente, perché sarebbe pleonastico, però è interessante rilevare alcuni risvolti, alcuni punti di questa loro presenza a Patti, adesso non più Timeri e poi Tindai, che sono delle cittadine che evidentemente propongono, offrono qualcosa di diverso dalla nostra consuetudine a Tortellina. Vanno, si guardano attorno, vanno a visitare la città di Patti, tra l'altro anche la villa romana di Patti, che ha una superficie che è più vasta di quella della villa del Casale, sapete, di Armerina, no? Però non ha gli stessi mosaici. Voglio solo dirvi una cosa a proposito, che questa villa è stata scoperta mentre si costruiva l'autostrada che passa per Patti e fu preservata. Ecco, l'autostrada è alta, è sul viadotto, la villa resta sotto, e la cosa mi fa pensare ad un mio carissimo amico che non c'è più, fumava troppo e che andò a costruire un'autostrada per conto di un datore di lavoro proprio in Sicilia, Capo Rollano, e mi raccontò una volta che mentre lavoravano con le ruspe scoprirono un'antica città greca oggi lì. Fecero sapere all'impresario, non all'impresario, diciamo all'imprenditore, questa loro scoperta, e la risposta fu: buttate tutto all'aria con le ruspe e non se ne parli, che non sape niente nessuno. Ecco, queste sono le cose che chissà quante volte sono avvenute, e questo da un lato c'è il vilipendio della donna, dall'altro lato c'è anche il vilipendio della natura, e il vilipendio, dico io e insisto, è il vilipendio delle nostre bellezze, delle nostre preziosità archeologiche. E vorrei però a questo punto aprire una breve parentesi, che è questa: quando ci siamo divisi i brani da leggere e da recitare davanti a voi, davanti al pubblico, Carmen mi ha detto: io ho sentito recitare il naufragio di Ulisse da Carmelo Bene, una cosa che mi ha colpito tantissimo, vorrei poterlo leggere io, ma dico, non è il caso, perché qui ci stiamo alternando, ci siamo alternati e non riuscivo a operare questa diversa suddivisione del lavoro. Però a Carmen ho detto: ci sarà modo di esporlo ugualmente. E adesso chiedo a Carmen di leggere alla Carmelo Bene questo fantastico naufragio descritto da Dante, il naufragio di Ulisse. Breve. Mi mette grandemente l'imbarazzo. Carmelo Bene, è vero che mi colpì moltissimo come dovesse Carmelo Bene, ma Carmelo Bene è un mio mito, non necessariamente la sua lettura di Dante deve essere l'unica lettura possibile, può anche tranquillamente non piacere. Rispetto trovo il lavoro filologico e vocale che ha fatto Carmelo Bene per provare a recitarla nello stesso modo. Posso solamente raccontare che quando io lo sentì per la prima volta in audiocassetta caddi letteralmente dalla sedia, perché fu per me una profonda rivelazione attorica, prima ancora che di testo. Del resto, ho avuto l'avventura di avere un insegnante che già in prima media ci faceva leggere Dante, e ho avuto un ambiente familiare che mi ha portato a leggere Dante sin dalla più tenera età, quindi non è stata una scoperta filologica, è stata una scoperta più attorica e sonorità di emozioni. Quindi non pretendo di leggerla alla Carmelo Bene, ve la leggo come viene a me, sperando che non mi capiti un'altra cosa piuttosto, perché veramente chiudo la mia carriera qui e tanti saluti. Non ci allegrammo e tosto tornò un pianto che dalla nuova terra un turco nacque e percosse del legno il primo canto. Tre volte il fe girar con tutte l'acque e alla quarta levar la poppa in suso e la prora in giù. Come altrui piacque. E finché il mar fu sopra di noi rinchiuso. Evidentemente sempre Dante, no? Questo mare chiuso, il mare che dà dolcezza nell'affogare, che viene descritto anche in un altro contesto, con una immagine che è stupenda: il tremolio della marina. Bello. E abbiamo visto anche alcuni momenti, sentito e goduto forse alcuni momenti di memoria, perché nell'esposizione di questo libro, che non è un trattato di letteratura, se è chiaro, c'è una vicenda, no? Anche alle volte molto carnale, carnosa, ecco, ho voluto ins- inserire il discorso della memoria, che è un discorso molto importante secondo me. Io quando vado a teatro e vedo gli attori che recitano a memoria, mi stupisco come fanno, e poi penso con raccapriccio agli amici che non hanno più memoria, ai tanti Alzheimer, mi spavento all'ipotesi e all'idea di poter un giorno finire anch'io così. E allora sapete cosa ho fatto? Riprendo le vecchie poesie imparate a scuola e me le ripasso alle volte a letto la notte, mi sveglio spesso la notte a letto e incomincio a recitare. Ed è un sistema pessimo questo, perché sollecita la memoria, ma stare a letto se non soccorre non viene una parola, che fai? Incominci a incaponirti e allora cerchi disperatamente la parola che non c'è, e allora cosa mi resta? Mi sveglio ancora di più, mi alzo e vado di là a cercare la parola in modo da completare la poesia che mi stavo recitando. E così riemergono dal passato tante poesie che oggi i ragazzi non studiano più, si perdono in tempo, non lo so per quale motivo, non lo so, si perdono con le macchinette, con i telefonini, i cellulari, trovano tutto in internet, che è molto più comodo che ricordarsi delle cose facendo appello alla propria memoria, mentre noi, io parlo di anni molto lontani, vista l'età che ho, parlo degli anni 40, 50, no? Quando si recitava e si imparava magari più volte in classe di Vergi, Cipressi, che Volgri, altri scritti, Vanda, Sanguini, in duplice filar, e poi altre poesie, la bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendola ai capelli del capo che gli aveva di retro guasto. Cosa vuol dire, professore, forbendola? No? E si costruiva qualche cosa, restava impresso, tante cose che sono qua, e ve la racconto ancora. Abbiamo vissuto tutto una congerie, un insieme di poesie da imparare a memoria, tormentate, tormentosamente alle volte, perché non era facile. Avete notato, io sapevo sempre benissimo l'inizio delle poesie, poi quando si arrivava in fondo era un problema, perché è facile partire con la nebbia lirti colli che originando sale, ma in fondo come terminerà per le vie del borgo, dalla sfortor dei tini, boh, chi so. E si cercava così, il professore o la maestra, la signora maestra, la signorina è maestra, no? Ti guardavano con attenzione e giudicavano, giudica e manda, secondo che Sarvinghi stava in minos, orribilmente ringhi. Altra frase che viene da lontano, dalla memoria, cose imparate e memorizzate. Io non so se quanto fosse valida la cosa o quanto non lo fosse, che non ci fosse forse alla base di questo apprendere a memoria un certo sadismo da parte dell'insegnante, no? Ricordo molto e con piacere, e mi rendo conto di una cosa, che questo ricordare episodi lontani espressi attraverso il verseggiare contribuisce, dà qualcosa, tanto gentile, tanto mi stappare la donna mia quando è altrui saluta, che la lingua del ventre m'hanno avuta, qui volendo saprei arrivare anche alla fine. Io sono Beatrice che ti faccio andare, vengo di loco ove tornar disio. E negli anni 20 vendevano in Italia un purgante che si chiamava Beatrice. Perché Beatrice? Sì, io sono Beatrice che ti faccio andare. Ma va? Sì, è così. trovai la rivista Illustrazione Italiana a casa di mia nonna a Catanzaro, e la cosa mi impressionò veramente tanto. Posso interrompere e introdurmi con una considerazione? Dio mio, che tristezza, sarà anche triste Beatrice che ti farà andare, ma vogliamo mettere, hanno lanciato sul mercato, l'ho scoperto in questi giorni, un calorifero da casa senza necessità di camino, che si chiama Ruby. Ruby? Avete presente a cosa mi riferisco? Chi è la più famosa Ruby in Italia degli ultimi anni, signore? Bravo! Sarà ben più triste questa che è il purgante Beatrice. Mi perdoni se l'ho interrotta, ma giusto che parlavamo di tempi e di tristezza. È anche piacevole dare un po' di pepe alle chiacchierate che si fanno. Sì, però è proprio l'altro, tra l'altro. Va a fare un altro discorso, visto che ci siamo sul discorso sulla scelta delle parole, no? Il solitario Augellin, per esempio, no? del Leopardi, tu solitario Augellin venuto a sera per vivere te la mamma delle stelle, certo non ti dorrai, che di natura è frutto ogni nostra vaghezza, solitario Augellin, Non c'è altra soluzione che solitaria Augellin per definire un passero solitario. No, non è solitario, è solingo. Tu solingo Augellin. Ecco, cosa fai là così solingo? Mia madre non me l'ha mai detto, io ero un tipo solitario, ma non solingo quando ero ragazzino. L'Augellin poi si presterebbe anche a tanti equivoci, ma lasciamo perdere. È la donzelletta che viene dalla campagna, per esempio. È la donzelletta. Mamma, chi è? Chi è? Si chiama Maria, ma chi è? Chi è? È una donzelletta. No. Eppure è un modo di esprimersi divertente, se volete, fascinoso, che c'è anche il latino poi. Ho dovuto imparare anche a memoria il latino. Titire tu patulere comans sub termine fati silvestrem tenuimus a meditare samena. Il professor Roberto Moggi ci faceva Tindaro che suona, lo imitava, Tindaro che suona il flauto sotto l'ombra di un faggio e si avvicinava camminando per la classe alla finestra e si affacciava su Piazza Domenicani che c'era sotto il liceo classico allora e esplodeva in clamorosi maiale, porco, quando vedeva uno che la chiesa dei Domenicani era semidistrutta, che si nascondeva dietro un angolo della chiesa per fare la pipì, e allora lo insultava: oh professore, non si fanno queste cose a ridosso di una chiesa. Non è il ridosso a una chiesa, è il fatto che non si fanno quelle cose davanti ad un liceo classico. Questa è la filosofia del professor Bozzo, no? Tra l'altro, l'apprendere a memoria il latino mi ha giovato perché mi ha insegnato tutti i 12 segni zodiacali in progressione. Nelle Metamorfosi Ovidio li ha così descritti, molto bello: Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, cioè la Libra, la bilancia, Scorpio, Arcitenens, Capricorno, Anfora, Acquario, Pisces. Sono tutti là i pesci, sono tutti là 12 in fila, stupendo. Oppure la prendere a memoria versi onomatopeici, come quelli che riproducono il suono di una carica di cavalleria, i cavalli con i loro quattro zoccoli percuotono il terreno, e così descrive, non mi ricordo più chi cavalleria, mi spiace di non ricordare, quadrupedante putrent soli tu quanto tungo al campus, no? È proprio un qualcosa di ritmico che si ripete e si esalta. Ecco, la memoria di il greco, e da Reo che ha imparato lo scritto, il paide su Dio. Abbiamo imparato a memoria tutto, un po' di tutto, abbiamo dimenticato tutto, quasi tutto, però qualcosa rimane, e poi si insinua poi attraverso nelle conversazioni, e trasforma una conversazione che potrebbe essere banale se non c'è esibizionismo in chi parla, come sto facendo io in questo momento, e si esprime un qualche cosa che va al di là della banalità. Bene, vado per le spicce a questo punto perché siamo già sul lungo. Torniamo a Sara e Ceparulo. Sara capisce sempre più che Ceparulo deve aver capito, deve aver intuito che è stata lei ad uccidere suo marito Davide, no? E rischia e teme che dopo aver goduto della donna Ceparulo si riveli per quel uomo violento e materiale che presumibilmente è. E allora si avvicina il momento della soluzione della vicenda, e si avvicina e incombe e si presenta, come ho detto prima, nel momento in cui vanno i due a visitare la città greca di Tindari, che si trova in alto. C'è Tindari con il suo teatro, con un decumano che arriva fino alla chiesa, al santuario. C'è un santuario lì, santuario di una Madonna nera, che naturalmente è stato eretto dove i greci avevano costruito un tempio. E c'è tutta una storia interessante su questa Madonna nera. Adesso faccio un'altra digressione. Pensate, perché? Cos'è questa Madonna nera? Potrebbe essere una qualche cosa di bizantino che è sfuggito alla furia degli iconoclasti. La si vede in questa chiesa di cattivo gusto, neoclassica ma recente, sotto una scritta che è sintomatica, che fa pensare: nigra sum sed formosa, sono negra ma bella. Bello, no? E con un certo riferimento ad un certo razzismo, direi io, come se una nera non potesse essere bella. Nigra sum sed formosa. E come è arrivata lassù in cima a questo colle questa Madonna? Ecco, la vicenda viene raccontata così: una nave che in anni lontanissimi si avvicina alla costa, c'è un naufragio, viene salvata dalla nave la tavola della Madonna, che i pescatori vogliono restituire alla nave che sta per riprendere il largo, ma la Madonna in un certo senso si oppone, perché aumenta il peso via via che la sollevano per riportarla alla nave. Insomma, capiscono che la Madonna vuole stare là, e allora le fanno questo santuario, c'è un santuario, ecco. E questa vicenda ricorda un'altra vicenda che è relativa ad un caso assolutamente analogo che si è verificato vicino a Cagliari, sulla spiaggia di Cagliari. È interessante per un motivo che vi dico subito: anche lì c'è una Madonna che viene recuperata dal mare, e le fanno una chiesa che diviene un santuario. Naturalmente la Madonna è miracolosa, perché solo la Madonna, Padre, Figlio e Spirito Santo, non si manifestano così, ma la Madonna è miracolosa, ce ne sono dappertutto. E come la chiamano questa Madonna? La Madonna era nera, anche questa, che si trova, ripeto, vicino a Cagliari, e la cosa interessante perché diventa, la chiamano la Madonna della Buonaria, della Buonaria. In che senso Buonaria? Perché è la Madonna della Buonaria, del buon vento, e diventa la Madonna di protettrice di tutto il mare Mediterraneo, parte cristiana naturalmente. La Madonna dei pescatori, dei marinai, eccetera, si trova vicino a Cagliari, è stata recuperata dalla mare, che è la Madonna della Buonaria, e quando i missionari andavano nel Sud America ad aprire le loro missioni, erano normalmente quasi sempre dei francescani, e ricordarono quell'episodio, si portarono appresso il ricordo di quell'episodio e dedicarono la loro missione alla Madonna della Buonaria. De las Buenas Aires. Buenos Aires è nata così, prende nome da questa Madonna di Cagliari. Ecco, ci sarebbe anche un'altra cosa interessante, ma ve la risparmio, perché ormai mi pare che siamo in direzione d'arrivo. Ecco, sul colle avviene la soluzione di questa vicenda, perché visitando le rovine nelle quali si era aggirato anche Salvatore Quasimodo, che scrisse una poesia, Il vento di Tinder, in una giornata di vento avvengono delle cose per le quali Sara capisce che Ceppavulo ha capito, e allora si sente di dover intervenire in maniera decisa e definitiva. A questo punto, non vi dico come, ve lo lascio immaginare, concludo la mia chiacchierata, vi ringrazio per essere qui venuti. Grazie a Carmen anche.